Radio Veneto. I giorni della Chiesa. Eventi e incontri della Diocesi di Padova. Ben ritrovati da Mirko Cavallini in studio e di darci alla parte tecnica. Prosegue lo spazio di ascolto, di proposta di eventi e incontri svolti e organizzati dalla Diocesi di Padova in quest'ultimo periodo. Anno 2017, anno 1517, ricorrono i 500 anni della Riforma Luterana, un evento molto importante che sta proponendo e dando lo spunto per una serie molto interessante di approfondimenti che proprio da oggi iniziamo a condividere con voi. In particolare saranno due percorsi, uno del Centro Universitario Padovano di Via Zabarella e l'altro della Facoltà Teologica del Triveneto. Iniziamo stasera proprio con il percorso sui 500 anni della Riforma, promosso dal Centro Universitario diretto da Don Roberto Ravazzolo, incontri che normalmente si svolgono appunto nella sede di Via Zabarella, ma che in un caso invece hanno cambiato location proprio per il forte richiamo del relatore. Fratello Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose, intervenuto all'MPX di Padova nell'ambito proprio di questo ciclo culturale dedicato ai 500 anni della Riforma Luterana. Il tema che Enzo Bianchi ha sviluppato è Ecclesia Semper Reformanda, cioè la Chiesa deve essere sempre da riformare. I giorni della Chiesa. Io torno sempre volentieri tra di voi qui a Padova. Ormai ogni anno da più di 40 anni posso dire che sono invecchiato venendo qui tra di voi di anno in anno, ma ogni volta che arriva l'invito da parte di Don Roberto, come un tempo da parte di Don Cristiano, cerco sempre di essere disponibile, sapendo di avere qui molti amici, degli ascoltatori che mi seguono con simpatia e verso i quali c'ho certamente un debito, il debito che cerco di assolvere anche questa sera con questa mia riflessione. Il titolo che mi è stato dato è Ecclesia Semper Reformanda. La Chiesa è sempre da riformare. E questo titolo appare come una formula della Chiesa antica, ma in realtà non la si trova presente mai nel grande dibattito della riforma del XVI secolo, quella di Lutero, e neppure nei secoli precedenti. Karl Barth, che prima ha nominato anche Don Roberto, la usa in una conferenza del 1947 e la cita nella sua dogmatica come un adagio attestato nella vita della Chiesa. Ma in realtà noi non sappiamo dare una paternità a questa formula, né quando è nata, e tuttavia possiamo cogliere in essa una necessità di riforma che è sempre stata sentita nei secoli diversi attraversati dalla Chiesa. In verità la Chiesa ha sempre sentito nei suoi membri il bisogno, l'anelito alla conversione, alla riforma. Ma se, come ha osservato il professor Alberigo, il grande storico della Chiesa, nel primo millennio la riforma ha avuto un significato essenzialmente individuale e spirituale. È stata sentita per mille anni come conversione di vita interiore nel cristiano, ma invece nel secondo millennio è stata invocata come rinnovamento della Chiesa, della sua forma istituzionale. È stata usata questa formula per chiedere un ritorno alla primitiva forma ecclesie. Questa è una formula medioevale, una specie di nostalgia, la forma della Chiesa primitiva, della Chiesa nata dalla Pentecoste, la Chiesa testimoniata negli Atti degli Apostoli e nel Nuovo Testamento, la Chiesa soprattutto dei primi secoli prima della grande svolta costantiniana. Ebbene, in questo senso, un altro grande teologo, Jean-Jacques von Almen, leggeva la Riforma come una epiclesi della Pentecoste e dunque un evento legato alla venuta gloriosa del Signore negli ultimi tempi. Scriveva von Almen: una riforma è un esaudimento provvisorio della preghiera che la Chiesa rivolge a Dio per affrettare la venuta del Signore e del suo regno. La riforma della Chiesa è sempre preludio alla resurrezione, al giudizio, alla vita eterna. Dunque, la riforma della Chiesa è un atto di obbedienza allo Spirito, a ciò che lo Spirito dice alle Chiese. Voi tutti vi ricordate come l'inizio dell'Apocalisse di Giovanni, il libro ultimo della Bibbia, ebbene in quell'inizio già ci sia la voce dello Spirito che chiede alle sette chiese dell'Asia di riformarsi, di convertirsi. Dunque, vedete, l'esigenza di riforma è iscritta già nel Nuovo Testamento come invito alla conversione e alla riforma della Chiesa. E all'angelo della Chiesa scrivi. Noi sentiamo sempre in quell'incipit dell'Apocalisse. E poi il rimprovero del Signore e quindi l'invito a mutare il modo di vivere, il comportamento di tutta la Chiesa. E tuttavia, attenzione, questo è uno snodo molto importante. In Tertulliano, che è un padre della Chiesa del III secolo, noi troviamo un'altra formula che appare opposta e che è stata sovente ripresa nella storia della Chiesa. Nunquam ecclesia reformabitur. Mai la Chiesa sarà riformata. Formula che mette in evidenza soprattutto il peso della tradizione, la continuità, fino a non prevedere rotture in nome di una fedeltà al passato. È importante. Nel Nuovo Testamento ancora l'istanza di una riforma. Già nel III secolo quasi il timore che la Chiesa debba riformarsi. E di conseguenza, vi dicevo, nel primo millennio la riforma come conversione personale del cristiano. Ma nel secondo millennio ecco che in maniera direi attestata, continua, si comincia a chiedere la riforma della Chiesa, soprattutto, attenzione, in Occidente, chiedendo questa riforma a partire dal centro della Chiesa occidentale, ormai diventato Roma. È certo che la parola riforma non ha goduto molta fama nella Chiesa cattolica, soprattutto dopo il grande scisma del XVI secolo, la riforma iniziata da Lutero, quella che è stata chiamata a lungo la rivoluzione protestante. Nel Dictionnaire di Théologie Catholique, pubblicato nel 1937, non appare mai il termine riforma. Si parla di rivoluzione protestante. E riforma appare come titolo di un libro, molto importante, profetico, di Yves Congar, quello che sarà il grande teologo del Concilio, ma che fu perseguitato negli anni 50 proprio per aver scritto questo libro, d'altronde mai tradotto in italiano, Vraie et fausse réforme dans l'Église, vera e falsa riforma della Chiesa. Ma proprio per quella preparazione che si era avuta del Concilio e di cui la Nouvelle Théologie, di cui Congar era un esponente, aveva dato il suo contributo, ecco che il termine riforma appare innanzitutto in un testo ufficiale, l'enciclica Ecclesiam Suam di Paolo VI del 1964. Ma anche qui, attenzione, vi do questa perla che pochi conoscono. Paolo VI, quando ha steso il testo in italiano, ha sempre scritto riforma per ben 16 volte. Quando però le persone incaricate del Vaticano a tradurre in latino il termine non hanno mai tradotto riforma, hanno sempre messo il termine renovatio, rinnovamento. E questo vi dice la paura fino a tradire un manoscritto di Paolo VI. Ma ecco, a partire dal Vaticano II, il termine riforma viene reintrodotto nel dibattito conciliare e appare poi all'interno di quelli che sono i testi conciliari. Appare nel testo sull'unità dei cristiani, era inevitabile, ma echeggia altre volte perché ormai è diventato un anelito a cui tutti, laici, vescovi, il Papa stesso, tendono, che è quello di una riforma della Chiesa. Certo, con Papa Francesco è diventato un termine frequentissimo, addirittura sta nel programma del suo pontificato e potremmo dire col Concilio di Costanza, che aveva detto la riforma della Chiesa deve essere in fide et in moribus, in capite et in membris, cioè riforma di tutta la Chiesa, nella fede, nel comportamento, nei costumi, nel capo, il papato, e nei membri di tutta la Chiesa. Ma cosa può indicare il termine riforma, in latino reformatio e non renovatio? Nel cristianesimo, che è ricezione della rivelazione, viene data una forma canonica più che esemplare, la forma del Vangelo, la forma della vita di Gesù, la forma della Chiesa. Dunque la riforma è un'azione per riportare alla forma canonica ciò che con il passare del tempo è stato oscurato, è stato trascurato o è stato addirittura perduto. Riforma è un'azione di conversione, di ritorno. E innanzitutto questo movimento deve essere incessante finché venga il Signore. Proprio in attesa di quel giorno della sua venuta, la parusia, la Chiesa, la sposa, deve farsi bella per il suo sposo. Sta scritto così in Apocalisse 21:2. Deve riformarsi secondo la forma nella quale lo sposo la attende. In questo senso la riforma della Chiesa diventa invocazione, epiclesi della venuta del Signore. Ma il termine riforma, soprattutto nel secondo millennio in Occidente, ha avuto il significato di ritorno, già vi dicevo, alla primitiva forma perduta o addirittura primitiva forma della Chiesa molto contraddetta. La tradizione cristiana ha sempre guardato a quei sommari di Luca negli Atti degli Apostoli. Li ricordate, i tre sommari al capitolo 2, 4 e 5, nei quali viene presentata la Chiesa nascente. E quella descrizione che viene fatta, in un certo senso, indica la Chiesa voluta dal Signore, la Chiesa plasmata dallo Spirito Santo. Dunque la Chiesa nella vera forma, la Chiesa esemplare per ogni Chiesa in ogni secolo. La descrizione della comunità primitiva con quelle quattro note o perseveranze, la perseveranza nella preghiera, la perseveranza nell'Eucaristia, la perseveranza nella condivisione dei beni, la perseveranza nella fede apostolica, ha sempre ispirato la forma cristiana. E questi sommari, quando la Chiesa diventa costantiniana, cioè diventa la religione dell'impero e ottiene la protezione di Costantino, ebbene, quei sommari cominciano a ispirare una riforma della Chiesa, oimè, non una riforma del popolo di Dio, purtroppo, ma la riforma di alcuni che, pur di cambiare forma alla vita della Chiesa, vanno nel deserto. È l'inizio della vita monastica. Coloro che dicono no alla Chiesa costantiniana, che vedono la mancanza del martirio come una perdita di testimonianza, che non vogliono stare sotto la protezione dell'imperatore, del Cesare cristiano, vanno nel deserto. E nel deserto, dove non regna Cesare, danno forma a comunità che si vogliono ispirate dai sommari degli Atti degli Apostoli. Nel IV secolo noi abbiamo da un lato la mondanizzazione della Chiesa, ma dall'altro lato il sorgere, attenzione, lo dico non pienamente soddisfatto, il sorgere di una forma di Chiesa più radicale che sarà espressa purtroppo solo dal monachesimo e non da tutta la Chiesa. E proprio a questa riforma, che fanno costantemente riferimento Pacommio innanzitutto, che nella sua prima regola mette i sommari degli Atti degli Apostoli come forma che la comunità deve prendere, poi Basilio, e poi sempre e sempre ogni vita monastica che nasce si appella a questa riforma. Ebbene, Agostino non arriva proprio a quella formula ecclesia semper reformanda che citava prima Don Roberto, ma ha un'espressione che ci fa dire però come già si sentiva che il Signore doveva riformare la Chiesa. Proprio Agostino dice nell'esposizione sui Salmi, al Salmo 103, «Ipse, Gesù Cristo, Lui stesso, erit reformator tuus, qui fuit formator tuus». Proprio colui che ti ha plasmato, ti ha formato, deve essere anche il tuo riformatore. Alla Chiesa compete dunque l'ascolto, l'obbedienza, la risposta alla chiamata, alla parola del Signore, a ciò che lo Spirito le dice. E nel decreto sull'ecumenismo il Concilio dedica il paragrafo alla riforma della Chiesa, dicendo chiaramente: siccome ogni rinnovamento della Chiesa consiste essenzialmente nell'accresciuta fedeltà alla sua vocazione, essa è indubbiamente la ragione del movimento verso l'unità. La Chiesa pellegrinante sulla terra è chiamata da Cristo a questa perenne riforma. Ecco il termine, perennis reformatio, della quale essa, in quanto istituzione umana e terrena, ha continuo bisogno. La Chiesa, in quanto istituzione umana, cioè fatta da uomini, in quanto organismo nella storia, deve essere riformata, purificata, per essere conforme alla volontà del suo Signore. Secondo punto. Le riforme del secondo millennio, almeno un cenno. Ho già detto che nel primo millennio c'è stata consapevolezza della necessità della riforma nella vita cristiana, ma soprattutto nella vita del singolo. Ma non si è mai giunti a manifestare l'urgenza di una riforma della Chiesa nel suo insieme, una riforma dei suoi assetti istituzionali e soprattutto della sua istituzione nel mondo. Mi permetto di dire l'ebbrezza della cristianità. Con la pace e con la libertà costantiniana, ma anche con la partecipazione al potere, aveva distolto la Chiesa da un simile sguardo su se stessa. La Chiesa era quasi compiaciuta di sé, della libertà ottenuta, della sua espansione tra i popoli barbari, che ha mai pensato in maniera seria una sua riforma. Certo, abbiamo avuto un Papa, Gregorio Magno, il quale ha impresso alla Chiesa degli accenti molto evangelici, ma non è stato certamente qualcuno che ha pensato di delineare una riforma, anche se nei suoi atti ci sono certamente grandi novità e direi dei grandi ritorni al Vangelo. Nel secondo millennio, invece, quando la Chiesa ormai è identificata addirittura con il potere temporale, non dimentichiamo lo Stato Pontificio, quando la Chiesa è identificata con i principi di questo mondo, allora appare il desiderio di riforma ecclesiale. E già, nel X e nell'XI secolo, di fronte a una Chiesa mondana nella sede romana e mondana anche però nelle chiese locali alla periferia, il monachesimo sente il bisogno di una riforma. È il monachesimo che parla di nuovo, di ritorno alle origini, soprattutto alle fonti monastiche d'Oriente, ritorno al Vangelo. Vi dico solo due nomi importanti, Cluny e poi Citeaux. Cluny, che sarà con Pietro il Venerabile un luogo certamente della riforma della vita della Chiesa, ma poi Citeaux con San Bernardo, ma anche con Pier Damiani e quindi con Papa Gregorio IX. Questi avviarono delle riforme spirituali all'insegna della correzione dei costumi, soprattutto del papato, dei vescovi e del clero. Si tratta di quella riforma che viene appunto chiamata riforma gregoriana, perché a capo di essa vi era Papa Gregorio IX. Ma questa riforma, nata per un rinnovamento spirituale e anche istituzionale della forma della Chiesa, questa riforma però, va detto con chiarezza, ebbe come risultato un accentramento del potere nella sede romana, un'istituzione papale accresciuta, un allontanamento dalle chiese d'Oriente, un cammino sempre più autoreferenziale della Chiesa cattolica diventata incapace di sinfonia con le altre realtà cristiane, certamente presente soprattutto nel Mediterraneo orientale. Da quel momento saranno sempre presenti voci e movimenti che chiedono la riforma della Chiesa, soprattutto nel XIII secolo. Stefano di Muret è poco conosciuto perché la sua comunità si è spenta abbastanza presto, ha durato non più di 100 anni, ma è stato davvero l'ispiratore delle riforme. Pietro Valdo e dietro a questi Francesco di Assisi. Ecco, tutti costoro non possono non essere iscritti in un movimento di riforma, anche se la loro testimonianza è innanzitutto quella del primato e dell'egemonia del Vangelo, al quale è associata la forma della Chiesa evangelica conforme al Vangelo. Arriviamo addirittura nel secolo XIII, si arriverà a parlare di due chiese, una potente, quella romana, che perseguita, l'altra invece povera, chiamata eretica, ma soprattutto perseguitata. Una chiesa carnale, mondana e una chiesa spirituale. La prima certo identificata con la Chiesa di Roma. Ma a questo movimento, che certamente ha degli aspetti ereticali, soprattutto in Pietro Valdo e soprattutto in tante correnti, soprattutto nel sud della Francia, a questa sete di riforma non ci sarà nessuna risposta, poimè, della sede romana. E nel XIV secolo, due secoli dopo, appare di nuovo prepotente un grande movimento di riforma che viene espresso al Concilio di Vienne 1311-1312, e in quel concilio si chiede la riforma reformatio in capite et in membris, la riforma nel papato e in tutta la Chiesa. È un anelito che non cesserà e che continuerà a non avere risposte, nonostante, attenzione, Papa Adriano VI, ma il suo papato durò pochi mesi, oimè, pochi mesi, ma questo grande Papa nel 1522 era giunto a dichiarare: la malattia della Chiesa ormai è grave, si è diffusa dal capo il papato a tutte le membra, occorre che ci sia una riforma estremamente precisa. L'ha dichiarato anche lui, e a lui il vescovo e monaco Zaccaria Ferreri aveva ricordato con una specie di slogan, ma che è significativo, perché voi sapete che gli slogan percorrono tutta la Chiesa. Aveva espresso così e l'aveva rivolto al Papa: purga Romam, purgatur mundo, reforma Romam, reformatus orbis universus. L'avete capito? Purga, purifica Roma e sarà purificata il mondo. Riforma il papato e sarà riformata tutta la Chiesa. Voci inascoltate. E proprio per questa sordità della Chiesa romana e soprattutto del papato, ecco, a un certo punto la riforma, il grido di riforma non è più stato contenuto con Lutero. È la riforma che idealmente si fa iniziare nel 1517. la riforma che ricordiamo nei 500 anni e di cui ricordiamo la leggendaria affissione delle 95 tesi. Ma la riforma era tanto desiderata. Per il suo ritardo è diventata facilmente rottura, irreparabile divisione, scisma e, a giudizio della Chiesa Cattolica, poi anche diversità della fede, dunque eresia. E dopo gli eventi della Riforma protestante vi sarà di fatto una Riforma cattolica, a lungo definita controriforma, ma in realtà una riforma di costumi dovuta al Concilio di Trento e soprattutto ai santi riformatori e alle loro iniziative e alle loro fondazioni religiose. Di riforma della Chiesa non si parlerà più, e Gregorio XVI, nell'enciclica Mirari Vos del 1832, sentite cosa afferma. Dice che è un disegno assurdo, estremamente oltraggioso, offensivo, pensare che la Chiesa debba essere riformata. Da quel momento di riforma della Chiesa non si parla, non se ne facendo al Concilio Vaticano II, e varrebbe la pena, ma qui non ho la possibilità, poi non sono qui per darvi una lezione storica, ricordare che chi ha aperto il discorso sulla riforma della Chiesa in maniera molto, direi, precisa, in maniera ossessiva, è stato un certo padre Lombardi, che presentò durante la guerra e subito dopo a Pio XII più volte un progetto di riforma. Eppure il grande Papa Lombardo, ascoltatissimo da Pio XII, non riuscì a convincere Pio XII alla riforma. E subito dopo, proprio quello che si augurava padre Lombardi, i più vecchi lo ricorderanno, perché era sempre presente in tutte le chiese e chi ha la mia età ne ricorda ancora il timbro con la R ai microfoni della radio, ebbene che l'uomo fu messo da parte per morire solo come un cane, perché sembrava che soprattutto quel libro che aveva scritto, Concilio, una riforma aperta, fosse davvero un grande oltraggio. E appena uscito quel libro, vi posso dire questo particolare, chi mi faceva crescere nella vita cristiana, eravamo nel 59, me lo regalò e io ne ho una copia, perché 2 mesi dopo, per ordine del Santo Ufficio, fu ritirato da tutta la Chiesa e furono mandate al macero tutte le copie che erano restate in magazzino e mai più stampato. Ma un libro che sarebbe, spero presto di scrivere qualcosa, che sarebbe da rileggere, perché le riforme che sta facendo adesso Papa Francesco sono già tutte predette in quel libro di padre Lombardi, tra l'altro un suo confratello che credo Papa Bergoglio forse non ha mai sentito neanche nominare prima di giungere al soglio di Pietro. Ma, come abbiamo visto, nel secolo scorso è ripreso questo desiderio di riforma che il Vaticano II ha giudicato conforme al Vangelo, tentando di dare adesso una risposta. Risposta ripresa e attualizzata da Papa Francesco in modo convinto e più volte da lui attestato, con interventi che lui dice devono significare una riforma spirituale, istituzionale del papato, della curia romana e di tutta la Chiesa. Terzo punto, la riforma della Chiesa dal Vaticano II a Papa Francesco. Il Vaticano II ha certamente innestato un movimento di conversione timidamente sentita e qualche volta dichiarata come riforma della Chiesa. Se il Concilio ha voluto un ritorno alle fonti della fede, le sante scritture, la liturgia, la tradizione, ha anche voluto un movimento di conversione, di purificazione, di rinnovamento, come ha preferito dire. Secondo quanto già accennavo, nell'Unitatis Redintegratio, il termine riforma appare significativamente due volte in modo eloquente per proclamare la perenne necessità della riforma e per dire che rinnovamento, renovatio, è anche riforma, al paragrafo 4. Papa Giovanni forgiò una parola, aggiornamento, dove però l'accento cadeva sul rinnovamento in ascolto ai segni dei tempi, in ascolto degli orizzonti dell'umanità. Sì, ritorno alle fonti, ma in Papa Giovanni soprattutto aggiornamento, e hanno fatto molto fatica a tradurre in latino questa espressione. Quelli che erano addetti alle traduzioni del Magistero Pontificio, trovando poi un'espressione accomodare necessitatibus, cioè accomodarci alle necessità emergenti, e questa espressione sta in Sacrosanto un Concilium Uno, aggiornare alle esigenze del nostro tempo. Ma questa volontà di Papa Giovanni presumeva la possibilità della Chiesa di stare in ascolto dell'umanità, di ricevere dal mondo domande, di ricevere dal mondo stimoli a cui rispondere con la luce del Vangelo. E in questo, attenzione, va riconosciuto, c'è già una riforma della Chiesa Cattolica, un cambiamento di atteggiamento verso il mondo, perché gli ultimi secoli erano contraddistinti da un ministero di condanna, da una estrema diffidenza nei confronti del mondo. E invece Papa Giovanni ha mutato l'atteggiamento della Chiesa in un atteggiamento di accoglienza, di misericordia, ma anche di ascolto e di ricezione dei suoi aneliti, dei suoi messaggi, dei suoi cammini di umanizzazione. E Papa Giovanni, che ha creato quell'espressione «i segni dei tempi», attenzione, perché i segni dei tempi non è neanche biblica in realtà, i segni del tempo eventualmente c'è nella Bibbia, ma lui ha preso quell'espressione biblica e segni dei tempi l'ha indicato l'emergenza dei poveri, la promozione della donna, il mondo del lavoro che si affacciava chiedendo dei diritti e riconoscimento, certamente una visione propriamente sua, ma attraverso la quale Papa Giovanni voleva che la Chiesa cominciasse ad ascoltare il mondo e decifrasse nella storia degli uomini la possibilità dell'intervento di Dio, una storia dunque di salvezza. Ebbene, è in questa scia di Papa Giovanni che Paolo VI dirà nella Ecclesiam Suam: la Chiesa si fa relazione, la Chiesa si fa conversazione, la Chiesa si fa dialogo, per cui le forme della Chiesa, le sue strutture devono essere riformate anche in funzione della storia, dell'umanità in mezzo alla quale la Chiesa vive la sua missione. O'Malley, lo storico attuale tra i più importanti storici della Chiesa, rileva il ribaltamento dell'adagio di Egidio di Viterbo. Egidio di Viterbo aveva formulato questa espressione: gli uomini devono essere cambiati dalla religione, non la religione dagli uomini. e molti continuano a ridire con altre parole questa convinzione. Infatti la forma ecclesia, in realtà, attenzione, muta per incontrare l'umanità, per incontrare i bisogni e le sue ricerche. E dunque gli uomini possono cambiare la religione come forma della fede. Certo, non possono cambiare la fede, ma la forma della fede, che è la religione e che muta di tempo in tempo, può essere anche cambiata in ascolto degli uomini. È chiaro che la riforma della Chiesa diventa dunque anche un confronto con lo stile di Gesù narrato dai Vangeli. Quello stile che era mai esclusivo, quello stile di povertà che era sempre di servizio, quello stile mai di comando e di imposizione, ma che poneva piuttosto domande a tutti quelli che Gesù incontrava. Riforma diventa allora anche un decentramento della Chiesa, perché al centro è messo solo il Vangelo da obbedire e l'umanità da servire. Nell'Ecclesiam Suam Paolo VI fa sua l'intenzione di Giovanni, ma subito si dichiara anche lui preoccupato che la riforma della Chiesa possa essere un adattamento al mondo e un cammino di riforme avventurose. Così nel 1969, poi nel 1972, il Papa cita l'adagio Ecclesia semper reformanda, ma gli dà un senso di nuovo, soltanto spirituale, interiore, di vigilanza affinché il mondo non sia ispirante per la Chiesa. Venuta poi la crisi postconciliare, lo spavento si è impadronito della gerarchia cattolica e poco per volta, scomparso il linguaggio della riforma, è tornato in auge addirittura quello della restaurazione. Non dimenticatelo che negli anni 90 più volte si è parlato che occorreva una restaurazione nella Chiesa cattolica, esattamente il contrario di ciò che è la dinamica di una riforma. Gli anni postconciliari presentano molte contraddizioni sul tema della riforma della Chiesa. E recentemente l'abate di Ansiedel in Svizzera ha contraddistinto quel periodo come un lungo inverno della Chiesa insensibile alle primavere della riforma. Nell'enciclica di Giovanni Paolo II, Autunum Sint, si attesta il legame tra rinnovamento, conversione e riforma, e si ribadisce il bisogno di riforma perenne. Attenzione, Giovanni Paolo II lo dice e lo riafferma, e addirittura Giovanni Paolo II si dichiara disposto a fare una riforma della Chiesa delle sue istituzioni, anzi della Chiesa del mondo, e addirittura di fare una riforma del papato. Voi sapete come in quell'enciclica quel brano sia stato davvero la perla di tutto il magistero ecumenico di Giovanni Paolo II, aver avuto il coraggio di dire: il ministero di Pietro, secondo la fede, è assolutamente da accogliere dal Nuovo Testamento, fa parte della fede cattolica. La forma con cui il papato è stato esercitato può essere invece assolutamente mutata e riformata. E Giovanni Paolo II è arrivato, lo dobbiamo assolutamente confessare, a chiedere alle altre chiese cristiane d'Oriente, ortodosse e quelle riformate, di dare il loro contributo e di dire come loro sarebbero disposti ad accogliere il ministero di Pietro in una forma che loro possono assolutamente approvare. Ed è in quel frangente che il cardinal Ratzinger disse che se gli ortodossi dovessero un giorno ritornare alla comunione insieme alla Chiesa romana, non dovrebbero accettare nulla di più di quello che hanno vissuto con il ministero del Papa nel primo millennio, e non gli sarebbe chiesto nulla di quello che la Chiesa Cattolica ha detto sul Papa nel secondo millennio, compresa l'infallibilità pontificia. Rendetevi conto cosa significa che il cardinale che sta a capo della congregazione della fede abbia potuto fare una tale dichiarazione. Per l'ecumenismo la riforma, possiamo dire, è sempre risultata una porta aperta. Ma ecco, nonostante le difficoltà, nonostante la chiusura per una riforma interna della Chiesa, a parte quella porta aperta per l'ecumenismo, ecco l'inatteso 13 marzo del 2013, esattamente un anno ieri, il cardinale Bergoglio viene eletto Papa e subito si presenta ed è percepito come un Papa che si vuole riformatore. Dichiara: ciò di cui la Chiesa ha più bisogno in questo momento storico sono le necessarie riforme. Sono le prime parole nell'intervista prima del suo pontificato. Necessarie riforme unite alla misericordia. Ed è così che Papa Bergoglio ha delineato il suo pontificato: perseguire delle riforme per ridare alla Chiesa lo stile di Gesù e nello stesso tempo dichiarare aperto il tempo della misericordia. Nell'esortazione apostolica Evangelii Gaudium, alla fine del 2013, testo programmatico del suo pontificato, ritorna sulle riforme della struttura della Chiesa, chiede una conversione pastorale in vista delle riforme, seguendo il sentiero che era stato tracciato dal Concilio. Parla di conversione del papato, attenzione, conversione del papato, conversione del ministero petrino, conversione delle diocesi, delle parrocchie, e soprattutto accenna all'assunzione della sinodalità come necessario mutamento del cammino della Chiesa. Papa Francesco ha iniziato la riforma della Curia Romana, ha modificato fortemente lo stile del Papa, vuole attuare uno stile sinodale, e l'ultimo sinodo sulla famiglia ha già risentito nel suo svolgersi di un diverso ordine da lui voluto. Alla fine del sinodo, nell'ottobre del 16, il discorso del Papa sulla sinodalità è stato coraggioso e profondamente riformatore, indicando che ormai tutta la Chiesa deve percorrere cammini sinodali, addirittura dando l'immagine della Chiesa classica di una piramide come una piramide rovesciata, lui ha detto. La Chiesa è sempre stata pensata una piramide con la base il popolo di Dio, poi i presbiteri, il clero, poi i vescovi e la cima il Papa. E lui ha dato l'immagine: capovolgete la piramide, il Papa sotto, i vescovi sotto, il clero sotto, e alla cima della piramide invece quella che ne è la base, il popolo di Dio. Certamente noi ci chiediamo, alla fine di questa riflessione, la riforma farà dei passi concreti o resterà solo un annuncio e resterà delle linee programmatiche di Papa Francesco? Per ora, voi sapete che amo essere veritiero, per ora la riforma della Curia va chiamata per quello che è soltanto una riorganizzazione, non è una riforma. perché la riforma richiederebbe ben altri mutamenti, ben diverse comprensioni dei rapporti tra Ministero di Pietro ed Episcopato, tra Curia Romana e conferenze episcopali delle varie terre, dell'Episcopato stesso presente tra le genti dell'umanità. Accorpare qualche ministero è riorganizzazione, non è ancora riforma. Proprio per questo nel cammino ecumenico si registrano gesti coraggiosi del Papa, incontri tra le chiese, rinnovato impegno di dialogo, ma non sembra per ora esserci un'azione che affretti la comunione visibile. Ve lo dico con rammarico. A riguardo occorre dire, ed è questo per me la cosa più importante, che riforma della Chiesa ed ecumenismo oggi significano lo stesso impegno, lo stesso cammino verso la comunione. Dire ecumenismo significa dire riforma della Chiesa, e una riforma della Chiesa si fa solo in sinfonia con le altre Chiese. Non può essere il cammino autoreferenziale della Chiesa cattolica o da parte delle altre Chiese in nome della loro storia e della loro identità. Oggi l'ecumenismo o è riforma delle Chiese oppure non è altro che cordialità. E la riforma di ogni Chiesa o è ascolto delle altre Chiese sorelle o non sarà mai una riforma. Se continuano a prevalere timori identitari, verranno spenti gli aneliti di riforma e non sarà possibile nessun sinodos, nessun camminare insieme, né all'interno delle singole chiese né da parte delle diverse chiese tra loro. Il problema serio è costituito sempre e ancora, ohimè, dalle paure del cambiamento, della conversione, che impediscono la riforma. La riforma sembra sempre annunciata, sempre augurata, mai attuata. Al massimo finisce per essere un aggiustamento di qualche aspetto della Chiesa diventato desueto e giudicato non più all'altezza dei compiti. Abbiamo così, come la definiva Congar, una falsa riforma della Chiesa. Non basta parlare di riforme o annunciarla. Concludo. Pier Damiani, un riformatore della Chiesa, primo secolo del secondo millennio, tra il 1007, muore nel 1072, era un monaco camaldolese di Fontavellana, poi diventato cardinale di Ostia. In uno scritto dedicato all'abate di Pomposa, dopo aver considerato la decadenza dominante nella Chiesa, scrive a questo abate: «Sapete che la fiamma può divampare dove resta una fiammella e una brace? Chi si metterebbe a soffiargli sopra dove resta una fiammella o una brace spenta?» Questa immagine mi ha sempre intrigato da quando l'ho scoperta da giovane leggendo questo grande monaco riformatore, e mi ha sempre accompagnato. Perché? Perché sovente noi riusciamo a vedere nel cristianesimo non il fuoco, ma solo una brace coperta dalle ceneri delle chiese. Amo questa immagine, la brace del Vangelo sepolta dalle ceneri delle chiese. Ma proprio le ceneri, voi sapete, chi ha un po' di pratica del cammino lo dovrebbe ricordare, sono quelle che conservano la brace ardente, altrimenti la brace senza la cenere si spegnerebbe. E alla sera, quando si andava a dormire, si copriva la brace con la cenere, in modo che al mattino, scoperta la brace dalla cenere, mettendo poi qualche pezzetto di legno, divampasse la fiamma. Ecco, io credo che il cristianesimo, come diceva padre Alexander Mann, questo martire della Chiesa russa nel secolo scorso, diceva: il cristianesimo non fa che ricominciare ogni giorno. Sì, ogni giorno è possibile che qualcuno decida di soffiare sulla cenere e di far brillare il Vangelo attraverso l'anelito e quindi perlomeno il tentativo di una riforma ecclesiale, come hanno fatto Francesco, come hanno fatto tanti all'interno della storia. Non ha forse detto Gesù: sono venuto a gettare fuoco sulla terra e quanto vorrei che divampasse? E allora ecco una domanda semplice: cosa c'è sotto la cenere che attende di divampare? Il Vangelo, soprattutto il Vangelo, ma alcune realizzazioni del Vangelo, dello stile del Vangelo, che molti cristiani vivono anche se non sono riconosciuti come tale. C'è tanto Vangelo vissuto, è anonimo, non è riconosciuto, non fa parte di personaggi famosi, ma più che mai tanti uomini e tante donne vivono il Vangelo, sono loro la brace, anche quando le ceneri delle chiese non permettono di vedere questa realtà. E allora noi speriamo che ci sia sempre qualcuno che ha questo coraggio di soffiare sulle ceneri, di far divampare il fuoco. Sarà la riforma della Chiesa, permettetemi di dire, non per spegnere la speranza, sarà un tentativo come negli ultimi 1000 anni, sarà magari solo un tentativo, ma il cristianesimo non fa altro che rinascere, rinasce ogni giorno. Questa è la nostra speranza e il Vangelo non si spegne mai. Grazie. Spot. Su e su per i ponti di Venezia. Domenica 2 aprile partecipa anche tu alla 39esima edizione della tradizionale passeggiata di solidarietà. Unisciti alla festa di giovani e meno giovani, famiglie, scolaresche, gruppi, associazioni sportive, tutti insieme per una giornata di amicizia e solidarietà. Due i percorsi a scelta, da 13 o 6,5 km, con 3 punti di ristoro. Iscriviti online sul sito www.suezoo.it oppure presso i punti vendita elencati sul sito. Infoline 041 59 04 717. Domenica 2 aprile, 39esima su e zoo per i ponti di Venezia. Una famiglia di amici. Blu Radio Veneto è anche in streaming. Ascoltaci su bluradioveneto.it. I giorni della Chiesa. E con l'ascolto della voce di Fratello Enzo Bianchi, fondatore della comunità monastica di Bose, abbiamo dato il via alla riproposizione del ciclo culturale dedicato ai 500 anni della riforma luterana, promosso dal Centro Universitario di Padova in via Zabarella. Enzo Bianchi è intervenuto all'MPX, una serata di forte richiamo anche numerico sul tema Ecclesia Semper Reformanda. Nelle prossime settimane seguiremo appunto questo percorso che il Centro Universitario di Padova ha tracciato proprio su questo importante anniversario, i 500 anni della riforma luterana. Eddie Daici alla parte tecnica, Mirko Cavallin in studio e in redazione, grazie per l'ascolto e buon proseguimento. I giorni della Chiesa. Eventi e incontri della Diocesi di Padova.